Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, chiaramente parleremo del risultato delle amministrative, non tanto per aggiungerci ai numerosi, giustamente, commenti politici, ma perché non sfugge a nessuno che all'interno di questo voto la variabile economica, o meglio della situazione economica che vive il paese rispetto a quella che viene in qualche modo raccontata dalle statistiche anche dal governo, è stata una variabile fondamentale, non l'unica, ci mancherebbe. Poi il voto è amministrativo, lo abbiamo ricordato in queste ore molte volte, quindi poi va preso caso per caso, ma se vogliamo dare una lettura complessiva, quella è una delle variabili cruciali. Ripeto, la differenza tra la narrazione, che è un tema molto caro al governo, della situazione economica e la realtà che vivono i cittadini. Non che la narrazione sia per forza necessariamente falsata, ma abbiamo detto più volte che con i dati che stanno arrivando di una crescita modesta, moderata, è difficile che una crescita dello 0,8-0,6 poi abbia un impatto visibile sulla maggior parte della popolazione, e quindi bisogna stare attenti anche quando si dice che abbiamo svoltato e che da questo punto di vista tutto sta andando meglio, perché se tu non te ne accorgi ti senti preso in giro. Abbiamo invitato in tempi non sospetti il governo a maggiore prudenza su tanti dati, il lavoro ma anche PIL, fermo restando l'ufficialità dei dati e quindi il fatto che c'è stato un cambio di segno, ma è un cambio di segno debolissimo. Di questo parleremo, anche perché nel frattempo ci sono anche misure di carattere economico che riguarderanno proprio i comuni, e avremo il nostro Gianni Trovati su questo, perché oggi c'è un Consiglio dei Ministri alle 18 convocato per il decreto enti locali, dove, manco a farlo apposta, i sindaci, i neosindaci, quindi Virginia Raggi a Roma, Beppe Sala a Milano, Chiara Appendino a Torino e Virginio Merola a Bologna, si vedranno cancellare tagli per quasi 400 milioni di euro. È una specie di salvagente che a Roma vale 100 milioni di euro, a Napoli 71, a Torino 70, a Milano 42 milioni. Non sono infatti i comuni, ma le città metropolitane ad avere bilanci più agevolati. I tagli bloccati valgono quasi il 40% delle entrate tributarie scritte nei bilanci degli enti interessati. Questo perché 8 città metropolitane su 10 hanno sforato il patto di stabilità interno, quindi il tetto imposto internamente. E questo per quello che riguarda il tema. Dopodiché è ovvio che ci occuperemo anche della variabile economica, come dicevo, e territoriale. L'agenda anche del governo, a maggior ragione dopo il voto sulle amministrative. La borsa è l'altro tema di oggi, perché continua a muoversi sulle ipotesi del tutto da verificare dell'esito del referendum in Gran Bretagna. Adesso prevalgono quelli che ritengono che in Gran Bretagna vinceranno i Remain, il voto per restare in Unione Europea. Tutte le borse ne prendono atto. Faccio notare che Milano ha un dato più debole di circa un punto percentuale rispetto alle altre borse europee, ma c'è un motivo, c'è lo stacco cedole di alcuni titoli, quindi se si va a calcolare la differenza tra stacco cedole, stacco dei dividendi e valore reale, praticamente anche Milano sarebbe in linea con il resto d'Europa. Più 2,25% Milano, più 3,5% Parigi, più 3,30% Francoforte, più 3% Londra. Staccano cedole oggi titoli come Poste, Enel, ma anche Acea, Iren e quant'altro. Tra i titoli che vanno praticamente bene, al di là di Poste, meno 2,90, ripeto, c'è lo stacco cedola, Enel, c'è lo stacco cedola, meno 1,70, A2 anche, essa stacca il dividendo, meno 0,90, Eterna stacca il dividendo ed è invariata. Dicevo, al di là di questo, Azimut più 7,90%, tutti i titoli legati alla finanza e al risparmio gestito vanno bene oggi, nell'ipotesi che la Gran Bretagna non esca dall'Unione Europea. Unipol più 6, bene, molto bene anche due titoli che non c'entrano però con la Gran Bretagna, ossia Hughes Net-a-Porter più 6,70 e Fiat Chrysler più 5 e 30, Mediobanca più 5,30, Saipem pure, Xol più 4,70, Monte dei Paschi più 4,60, Mediolanum più 4,30 come Mediaset, Prismian più 4% come la Popolare Emilia Romagna. Parleremo anche nel corso della borsa di Rizzoli Corriere della Sera, perché? Perché sono arrivate le due offerte nel fine settimana, o meglio, Cairo ha alzato il prezzo dell'OPA allineandola con i valori dell'OPA di Bonomi, ci si aspetta un rilancio a questo punto anche di Bonomi, e la partita è totalmente aperta. 349-238-6666 per i vostri sms WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, andiamo avanti con l'economia internazionale come sempre, perché oggi ci sono una notizia importante, arriva dall'Iran, è soprattutto di carattere simbolico, anche se ha una componente economica, e cioè l'Iran, il governo del presidente Rouhani ha dato il via libera all'importazione di automobili statunitensi nella Repubblica Islamica dell'Iran. È la prima volta sostanzialmente dal 1979, della presa di ostaggi nell'ambasciata americana a Teheran, quando si interruppero i rapporti diplomatici tra Washington e Teheran. Per ora i numeri sono ancora risibili, il primo cargo sarà di 200 Chevrolet, ma insomma, ripeto, è più simbolica oltre che economica. L'altra notizia importante di carattere internazionale riguarda la Volkswagen, perché è pronta a presentare alle autorità americane un accordo da 10 miliardi di dollari per risolvere la disputa dello scandalo sulle emissioni diesel, il famoso Dieselgate. La casa automobilistica tedesca presenterà un piano, secondo quanto riportano le agenzie di stampa, per riparare 500.000 di auto diesel o ritirarlo dalle strade, anche se ancora in attesa del via libera delle autorità su come modificare le auto. Allora, mentre è attesa per la mattinata di domani la sentenza della Corte Costituzionale tedesca sulla legittimità dell'OMT, cioè il piano di Mario Draghi anti-spread, quello lanciato nel settembre 2012 per intervenire nel caso di un attacco, di una crisi del debito di alcuni paesi dell'area euro, era la conseguenza di quando Draghi disse: noi siamo pronti a difendere l'euro con ogni mezzo possibile. Ricorderete, domani i giudici di Karlsruhe dovranno stabilire se la Banca Centrale Europea abbia travalicato i limiti del proprio mandato. Nel frattempo però ieri è tornato a parlare il ministro delle finanze tedesco, il falco Wolfgang Schäuble, e ha criticato di nuovo le politiche di Mario Draghi. Dice: le politiche monetarie di bilancio hanno raggiunto il loro limite, sono molto espansive a livello mondiale e attenzione, ha detto Schäuble, che la liquidità e il debito in eccesso generano volatilità dei mercati. La tentazione in questo momento è di acquistare tempo con denaro che non si possiede. Allora Schäuble può sorprendere qualcuno, ma secondo me ha ragione nel dire che il rischio è che se tu stampi euro e questi non vengono assorbiti, hai un rischio di volatilità, cioè di un eccesso di liquidità che non sa dove andare e quindi droga il mercato. Ma il problema è proprio questo, che Schäuble deve dirla tutta, nel senso che negli Stati Uniti hanno, per uscire dalla crisi, hanno stampato dollari, ma nel frattempo ha fatto anche politica di investimenti, quindi i dollari che stampavano venivano assorbiti dagli investimenti anche di carattere federale, quindi pubblico. Se tu non hai la seconda gamba, Mario Draghi stampa e rende praticamente costa nulla, anzi negativo, ricorrere a prestiti e il denaro, stampa denaro. Ma se tu non hai un piano di investimenti serio in Europa e non quella robetta così tutto fumo di Juncker, questi soldi restano tra coloro che sono sospesi e creano liquidità. Ecco, quindi Schäuble ha ragione nella prima parte, deve aggiungere però: siccome la Germania si oppone a qualunque piano di investimenti europei, gli eurobond, per finanziare progetti, non per finanziare infrastrutture digitali piuttosto che infrastrutture fisiche, beh, allora quei soldi stampati non vanno all'economia reale e quindi non ottengono l'effetto dei cosiddetti helicopter money evocato anni fa da Greenspan, cioè lanciare i soldi con l'elicottero verso la gente per fare spendere di più. Ecco dove che si blocca. Si blocca perché manca la gamba di Bruxelles, caro Schäuble. Allora, decreto enti locali, dicevamo, venendo ai temi italiani, dedicato appunto agli enti locali, ne parleremo anche più avanti, però su questo si concentrano i 100 secondi della 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. I nuovi sindaci delle grandi città usciti vincitori dai ballottaggi di ieri non hanno ancora tecnicamente cominciato il loro mandato, che già potrebbero ricevere un sostegno dal governo grazie a un decreto atteso oggi all'esame del Consiglio dei Ministri per salvare i conti dell'ente che dovranno guidare. Virginia Raggi a Roma, Beppe Sala a Milano, Chiara Appendino a Torino, Merola a Bologna, anche De Magistris a Napoli si vedranno cancellare possibili tagli per quasi 400 milioni di euro. Attenzione però, è un intervento che serve a salvare dal dissesto non i bilanci del comune, ma i bilanci delle città metropolitane, che sono i nuovi enti territoriali nati dalla soppressione delle province. Le città metropolitane, anche se non se n'è mai parlato durante la campagna elettorale, sono guidate, presiedute proprio dai sindaci delle città capoluogo. Lo stesso decreto interverrà anche su un altro capitolo dolente, quello delle vecchie province. La soppressione delle province, sappiamo, arriverà con la riforma costituzionale se passerà il referendum confermativo. Per ora, con la legge Delrio, sono state alleggerite le funzioni delle province, ma nel frattempo il trasferimento dei dipendenti provinciali ad altre amministrazioni è andato a rilento e questi lavoratori sono ancora in carico al vecchio ente che li deve pagare. Risultato: bisogna lasciare alle vecchie province 600 milioni di euro per evitare che finiscano in dissesto. Insomma, un gran lavorio, ma le province sono sempre lì al loro posto. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, alcuni mi chiedono se l'ACEA, la municipalizzata dell'acqua a Roma, l'ACEA S.P.A. sta perdendo per via dell'elezione della Raggi. No, attenzione a fare cortocircuiti molto facili. Lì ha staccato il dividendo, perde il 5% in questo momento, ma senza lo stacco della cedola perderebbe lo 0,5-0,6%, per cui... no, dopodiché, per carità, uno può fare i ragionamenti che vuole sulle municipalizzate di Roma o di altre città, più che sulla CEA io sapete dov'è che andremo a parlare anche forse venerdì, sulla municipalizzata dei trasporti di Roma, insomma. però andremo con ordine, vedremo i primi provvedimenti e li commenteremo assieme, è inutile fare speculazioni adesso, andiamo avanti con le altre notizie, ancora due notizie in breve, una riguarda la Popolare di Vicenza perché secondo quanto riporta il Giornale di Vicenza sarebbero in arrivo sanzioni da parte della Consob, meglio tardi che mai, alla Popolare di Vicenza e ad alcuni suoi dipendenti di alto livello per supposte violazioni della normativa europea MIFID sui documenti da compilare obbligatoriamente da parte degli istituti di credito per tracciare un profilo dei loro clienti quando acquistano prodotti finanziari. Ad essere nel mirino sono le azioni della stessa Popolare di Vicenza in occasione dei due aumenti di capitale 2013-2014, quelle in cui portarono prima a 43 e poi a 62 euro il prezzo dell'azione che adesso vale 0,1 e tra l'altro vendute queste azioni spesso grazie alle cosiddette operazioni baciate e congelate nei giorni scorsi da un pronunciamento del giudice del Tribunale di Vicenza. Cosa ha fatto il Tribunale di Vicenza? Ha accolto il ricorso d'urgenza di un imprenditore che ha chiesto di dichiarare nullo il contratto di fido in relazione alla sottoscrizione dell'aumento di capitale correlato. Traduco. La politica della Popolare di Vicenza, per avere l'aumento di capitale, cioè per avere correntisti che comprassero le azioni prima a 43 e poi a 62 euro, era una politica che purtroppo hanno anche altre banche, ma nel caso della Popolare di Vicenza e di Vento Banca era ancora più grave, perché i titoli non erano quotati. Ossia si diceva: tu vuoi finanziamento, mi compri un certo numero di azioni. L'imprenditore è riuscito a farsi dichiarare nullo il contratto di fido, cioè dei soldi che ha avuto in affidamento, mostrando che c'era stata una richiesta contestuale di acquisto di azioni, e questo può aprire il ricorso di tantissimi altri azionisti. Lo fanno anche altre banche, lo sappiamo. Il problema vero lì è che quando le azioni non sono quotate, perché sai, la tua banca, se è quotata, ti dice: sottoscrivi un po' di azioni, tu puoi sperare magari di guadagnarci nei prossimi settimane o mesi, e comunque c'è un prezzo che stabilisce il mercato, che non va a prestare soldi per nulla. E invece lì il prezzo lo stabilivano Zonin e Consoli, e quindi tu compravi a 42 euro, anche se il valore dell'azione a quel tempo era forse di 4 euro, forse di 4 euro, con quello che abbiamo visto dopo, e senza che ci fosse un mercato. E quando hai dovuto, volevi rivendere perché ti eri accorto che le cose buttavano male, non riuscivi mai a trovare un compratore allo sportello bancario. Questa era la trappola, il cappio, non solo, diciamo, il dire compra un po' di azioni. Comunque 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo dai mercati, adesso da qui a giovedì abituiamoci ad avere quasi un aggiornamento continuo sulla Brexit, perché è l'elemento più importante, a mio avviso, se vogliamo ragionare in chiave prospettica, forse dell'intero anno, per quello che riguarda le tensioni sui mercati finanziari. Allora, cerchiamo di capire, e lo faremo giorno per giorno, come stanno andando le varie posizioni e gli orientamenti di voto in Gran Bretagna. Allora, sono d'accordo a chi scrive: ma come, è impossibile per un risparmiatore che non sia un avvocato o un commercialista a leggere e comprendere la MiFID. Lo so, è questo il problema. L'ho ammesso in maniera, diciamo, contorta anche Vegas, che prima ha detto: no, noi tutti hanno rispettato gli obblighi, però questi obblighi non servono molto, perché le informazioni date alla clientela sono così tante, così articolate, così complicate, che praticamente tante informazioni uguali a nessuna informazione. Peccato non averlo detto prima, lo dico alla Consob e anche alla Banca d'Italia, peccato non averlo detto nel 2013, 2014, 2015, quando i buoi erano ancora dentro. Senza offesa per i buoi, ci mancherebbe. Allora, andiamo avanti con le altre notizie. Ecco che dalla Volkswagen arriva la notizia che è indagato l'ex numero uno Martin Winterkorn, ex numero uno di Volkswagen, proprio sul Dieselgate. Risulta indagato assieme a un altro manager dalla Consob tedesca, la Baffin, perché insomma esistono reali indizi, e poi adesso dal tribunale di Braunschweig, per presunte manipolazioni sui corsi dei titoli del gruppo nell'ambito dell'emissione del caso Dieselgate, a seguito di una richiesta avanzata proprio dalla Consob. Esistono reali indizi sul fatto che i due ex manager abbiano violato la legge non informando tempestivamente gli investitori delle conseguenze finanziarie dello scandalo Dieselgate. Ma insomma, vedremo, secondo me, che proprio Winterkorn se la può cavare solo con la buona uscita, grazie, arrivederci. Però quello è un altro paese. Brexit. Allora colleghiamoci con Londra, dove c'è il corrispondente del Sole 24 Ore, Leonardo Maisano. Buonasera, Leonardo. Buonasera a voi. Dunque, oggi i mercati, io li guardiamo molto poco perché siamo, non dico la schizofrenia, ma ci andiamo vicino. Oggi tutti festeggiano perché sembra che si allontani il rischio di una vittoria dei Leave, quindi di chi vuole uscire dall'Unione Europea. 3,61% il rialzo di Parigi, 3,40% di Francoforte, 2,90% di Londra, e sarebbe di quasi oltre 3% anche Milano se non vi fosse lo stacco cedere, siamo un più 2,50%. Ma che è successo di diverso, visto che oggi sono volate anche tutte le banche d'affari, Goldman Sachs più 2,5, Citigroup più 3, JP Morgan più 2, Bank of America più 2,30? È successo che si è interrotto il trend che nell'ultima settimana aveva dato una forte spinta all'IVA. Negli ultimi 10 giorni i sondaggi erano girati tutti a favore di l'IVA, indicavano comunque una progressione tale che dal giorno del referendum avrebbero potuto comunque prendere la testa. Questo si è interrotto perché c'è chi lo imputa all'omicidio di Joe Cox e quindi all'ondata emotiva che ha suscitato, certo, l'assassinio della deputata laburista, che era una nota che si batteva per Remain, certo. No? Ma c'è anche un'altra cosa che va considerata, cioè a questo punto gli indecisi cominciano a decidere, e quando siamo a ridosso del voto lo spostamento a favore dello status quo è sempre significativo. Siccome gli indecisi erano una quota abbondante, continuano ad essere una quota abbondante, probabilmente c'è un'erosione di questi indecisi a favore di Remain. Questi sono i motivi che sono poi stati, evidenziati in 2 sondaggi, realizzati tenendo in parte conto, cioè soltanto una piccola parte del campione era a conoscenza dell'omicidio della Cox, quindi in parte c'è l'effetto emotivo della Cox, ma solo in parte in questi 2 sondaggi, che indicano Remain in testa in realtà di 2 o 3 punti, quindi siamo completamente e assolutamente nell'ambito certo, dell'errore, insomma. Però è vero quello che tu fai notare, allora, l'effetto Cox, ahimè, è cinico, tragico, oltre che cinico, però l'abbiamo raccontato anche la settimana scorsa. Fai bene a far notare che poi la quota di indecisi, quando vai sottodata, deve decidersi, non tutti, ci mancherebbe. E l'idea che il danno, a noi sembra di aver visto, insomma, che da tutti gli osservatori, i danni dell'uscita sembrano abbastanza certi, i vantaggi un po' meno, se non se vogliamo ragionare solo in chiave economica. Poi sappiamo che in un voto come questo non c'è solo l'elemento economico, c'è l'elemento ideologico, culturale, anche nazionalistico, per cui non stiamo dicendo che solo la variabile economica è quella che porta a votare i britannici col portafoglio. Però, detto questo, noi abbiamo visto anche altre dichiarazioni. Secondo te, da qua per esempio la Ford ha scritto ai 14.000 dipendenti britannici dicendo: attenzione, vi saranno dei costi aziendali annui pari a centinaia di milioni di dollari nel caso di un eventuale divorzio della Gran Bretagna da Bruxelles. Lettera indirizzata a 14.000 lavoratori. Uno può dire: beh, è una pressione indebita, però un'azienda privata come la Ford deve anche avvisare. Certo. La SACE oggi dice che l'export in Italia farà un meno 7% nel 2017 se la Gran Bretagna lasciasse l'Unione Europea. Un impatto massimo per 1,7 miliardi di euro. Dicevi, che tutta l'industria dell'automotive è molto esposta, ovviamente, perché qui si produce un numero record di auto, anche se non sono più auto inglesi, non c'è più il campione nazionale, sono Land Rover, Jaguar, che sono indiane, oppure Vauxhall e Toyota, che delocalizzano qui per una serie varie di ragioni, però è l'industria di punta della manifattura, o di quello che resta della manifattura inglese, e l'80% viene esportato, il 60% viene esportato sui mercati europei. Quindi è chiaro che c'è una sensibilità al tema single market da parte dei produttori di auto che è comprensibilissimo. Detto questo, cioè, non consideriamo la partita chiusa, perché se i temi economici sono quelli, il punto economico è stato vinto assolutamente dal fronte Remain, cioè l'IV non è mai stato in grado di presentare un ragionamento, sostenibile dal punto di vista economico. Cioè, che vantaggi ne avrebbe, al di là dell'avversione, dell'insofferenza nei confronti dell'Unione Europea, quali sarebbero i vantaggi per la Gran Bretagna? Esatto. Che, ripeto, attenzione, non esportando, è un importatore netto, non ha neanche il vantaggio, di dire aumentano le nostre esportazioni con un pound più basso, non è così. No, certo. E poi c'è l'aspetto invece emotivo, perché questo è un referendum, e l'aspetto emotivo, al di là della vicenda Cox, in generale è legato all'immigrazione, che è l'altro grande caposaldo. Su questo bisogna riconoscere che sull'immigrazione Cameron e il governo hanno sbagliato tutto, perché hanno fatto soltanto un punto negativo da limitare, invece di cercare di vendere il fenomeno immigrazione che ha un saldo positivo di 2 miliardi e mezzo di sterline, tra parentesi. Quindi voglio dire, alla fine è un vantaggio economico, al di là del tasso di creatività, eccetera, ma proprio in termini economici è un saldo positivo. E questo lui non è mai riuscito a farlo passare con forza. E sì, nemmeno le proporzioni di questa immigrazione, perché guardavamo i dati, insomma, la maggior parte dell'immigrazione in Gran Bretagna è fatta da cittadini europei. Sì. E lì c'è il tema del welfare da dare agli italiani, ai francesi, agli spagnoli, ai tedeschi, ai portoghesi che lavorano a Londra e non solo. Attenzione, tu parlavi dell'apporto creativo, che poi tradotto vuol dire che siccome la maggior parte di questi profili sono profili alti, laureati, diplomati, la Gran Bretagna ha un bacino di laureati diplomati che utilizza, ma che non deve formare, cioè non gli costano, arrivano già belli preparati dalle varie università del resto d'Europa, con un vantaggio competitivo enorme, perché diventi il famoso teorema Wimbledon, il miglior posto dove giocare o in quel caso dove lavorare, e tutti vengono a trasferirsi lì. Per cui su questo, l'ultima considerazione però, Leonardo, che ho per te è su Cameron, perché adesso è ovvio che tutti quanti aspettiamo di vedere venerdì come sono andate le cose. Ma che anche qui si sia un po' di fronte a dei dilettanti allo sbaraglio, possiamo dirlo, nel senso che sì. Cameron ha indetto un referendum convinto di sistemare un problema interno che aveva tra i Tory e spianarli, e si è trovato con un vaso di Pandora. Assolutamente, anche perché poi lui, voglio dire, euroscettico è sempre stato, diciamo moderatamente, ma lo è sempre stato. In più adesso si deve, come dire, cercare di ricrearsi un'immagine facendosi invece paladino dell'Europa, per cui è una condizione abbastanza difficile. Ma il punto vero è che questo referendum non doveva mai essere indetto, punto. È stato un errore fin dall'inizio, errore giustificato tra virgolette dalle ambizioni politiche di Cameron, che ha portato un paese alla spaccatura e a una campagna referendaria di una asprezza. Io ne ho viste tanti di campagne referendarie o politiche, raramente dell'asprezza delle difficoltà che si sono viste in questa occasione. E anche di un morto che non è imputabile chiaramente a chi, a chi fa la campagna per andarsene, ma forse è imputabile al clima che si è creato in questa campagna. In parte, certamente. Ci mancherebbe. Parliamo sempre del gesto di uno squilibrato. No, ma lo squilibrato è squilibrato. Che matura in un contesto. Vedo molti messaggi, sì, ognuno può pensare come vuole, per quello che riguarda i dati economici. Guardate che le balle dette non sono solo le balle sull'Europa, sono anche le balle contro l'Europa. Io ho sentito comizi interi in cui si diceva che l'Europa non è, il Parlamento europeo non è eletto, ma è una balla grande come una casa. Votiamo ogni 4 anni per le europee, che la Gran Bretagna paga per l'Europa, la Gran Bretagna riceve più di quello che dà. Cioè, ognuno può pensare come vuole, può essere dell'idea di uscire dall'Unione Europea nonostante questo, ma dire balle così no. Grazie intanto Leonardo Maisano in collegamento con noi da Londra, meteo, pubblicità e poi parliamo di borsa e iniziamo la pagina di carattere economico, ma sul risultato delle amministrative. State ascoltando un programma offerto da... Se nella tua azienda c'è Inaz, c'è solo il bello del lavoro. www.inaz.it. Focus Economia. Minuti, allora andiamo sulla borsa e poi ragioniamo sul decreto del governo, visto che fra 20 minuti dovrebbe iniziare il Consiglio dei Ministri, che avrà come oggetto proprio anche il decreto enti locali. Più 2,54% Milano, più 3,50 Parigi, più 3,40 Francoforte, più 3,13 Londra, più 1,30 in questo momento il Dow Jones. Però Milano ha numerosi titoli che hanno staccato la cedra, cioè hanno distribuito il dividendo, e sappiamo che dopo lo stacco del dividendo il titolo si riposiziona, cioè va in giù esattamente per il valore che tu hai staccato, se no sarebbe troppo facile, tutti comprerebbero il titolo il giorno dello stacco cedra per guadagnarci. E poi però ci possono essere variazioni interne. Quanto vale lo stacco cedola complessivamente sull'indice? Lo chiedo a Guido Maurino, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera, lo stacco cedola vale cedole. Circa 0,7 quanto? Punti, 0,7 punti percentuali, quindi diciamo che Milano ha guadagnato il 2,5, senza lo stacco cedola avrebbe guadagnato il 3,2%. Quindi assolutamente in linea con Francoforte e Parigi. Stacco cedola per Poste Italiane ed Enel e... A2A, ma anche Terna, Destin Microelectronics. Lo dico perché adesso dovrò dare le variazioni percentuali. Voi avete già fatto il calcolo di quanto pesi lo stacco su Edexor? Allora, non abbiamo ancora fatto il calcolo definitivo, diciamo così, però l'abbiamo fatto sui titoli maggiori. Abbiamo visto ad esempio che su Poste Italiane ed Enel, senza lo stacco cedola, diciamo che il titolo guadagnerebbe circa 2 punti percentuali. L'abbiamo anche fatto su due titoli che oggi erano molto sotto osservazione da parte del mercato, che erano quelli Iren e Acea, perché erano le due municipalizzate, Iren di Torino e Acea di Roma, su cui si concentravano l'attenzione degli operatori dopo le elezioni comunali che hanno consegnato la vittoria al Movimento 5 Stelle. Anche in questo caso i titoli hanno perso nominalmente molto, perché Iren ha fatto meno 5,2% e Acea meno 4,79%, ma se lo ridimensioniamo per lo stacco cedola vediamo che Iren ha ceduto circa 2 punti percentuali e Acea circa 1 punto percentuale. Allora, al di là appunto di questi titoli, invece va decisamente bene Azimut più 8,20, Iux Santa Porte più 6,70, Unipol più 6,20, Saipem più 5,90, Mediobanca più 5,50, Fiat pure, Monte dei Paschi più 5,20, Mediolanum più 5, Mediaset più 4,70 come Leonardo, Pop Emilia Romagna più 4,5 come Prismian, e Unipol Sai, Finecobank più 4%, Atlantia più 3,80, Luxottica più 3,5 come Campari e Unicredit, ma anche CNH Industrial, Telecom Italia più 3,30, Intesa San Paolo più 3 come Generali e Snam ed Eni. Allora, oltre a questi titoli, dicevo, bene risparmio gestito, qui è l'effetto Brexit, immagino, ne abbiamo appena parlato con Leonardo Maisano, Fiat da un lato, tra cui anche Exor, e Rizzoli Corriere della Sera, perché nel fine settimana è arrivata la controfferta di Cairo e a questo punto il mercato che porta praticamente allo stesso livello le due offerte a 0,80 centesimi, sono 0,79, 0,80 valorizzazione del titolo Rizzoli Corriere della Sera, ma ci si attende, se ho ben capito, anche una controfferta da parte di Bonomi e quindi i due titoli. Allora sì, allora, per quello che riguarda Fiat Chrysler, l'amministratore delegato Sergio Marchione nel fine settimana ha confermato i target 2016. C'era attesa anche per capire quello che succederà negli Stati Uniti, da cui si arriva da mesi e mesi di vendita in crescita e che in prospettiva questa crescita non potrà durare all'infinito. C'erano stati alcuni report la scorsa settimana che mettevano un po' di nubi sul titolo e sulle vendite di auto negli Stati Uniti. Marchione ha rassicurato, ha spiegato che si tratta di tutti i calcoli che i manager del gruppo hanno già fatto e che non vede quindi preoccupazioni per i target che Fiat Chrysler si è data nel corso dell'anno. Per quello che riguarda invece RCS, sì, come dicevi tu, nel fine settimana, venerdì scorso, è arrivato un piccolo miglioramento da parte di Cairo che si è portato al livello dell'offerta di Bonomi, attorno agli 0,7 euro sostanzialmente. Si attende ora per un ulteriore rilancio di Bonomi che potrebbe arrivare, ma si tratta in ogni caso di, almeno stando alle indiscrezioni, di un micro rilancio, non di una cosa molto significativa, per cui oggi l'abbiamo visto anche sul titolo, RCS ha ceduto l'1,73% a 0,77 euro e significa che forse il mercato inizia a pensare che non ci potrà essere una corsa così sostenuta di rilanci sul titolo da giustificare ulteriori rialzi di comunque un gruppo editoriale e un titolo che nel corso delle ultime settimane era cresciuto molto. Eh sì, andiamo comunque sui migliori e peggiori, che vedono chiaramente il settore del risparmio gestito, ma in realtà Mondo TV Swiss più 10,70, Invest più 10,20, poi appunto Azimut abbiamo detta, Erg più 6,90, Fronte Opposto, Biancamano meno 6,90, Gambero Rosso meno 6,50, Bastoggi meno 4,70%. Grazie a Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore. Andiamo sul traffico e poi parliamo del Consiglio dei Ministri e dei soldi che arriveranno a 8 su 10 città metropolitane. Focus Economia. Ora, io non oso pensare cosa sarebbe successo se avessero vinto a Torino e a Milano PD, a Torino e a Roma, scusatemi, PD, a Roma la vedo molto dura, sarebbe stata comunque molto dura, e avessimo dovuto commentare questo decreto. In realtà era un decreto atteso, lo dico a chi sta scrivendo, perché alcune città metropolitane, quasi tutte, si vedranno cancellare tagli per quasi 400.000 euro, ossia 400 milioni di euro, ossia avevano sforato il patto di stabilità interno, le spese che potevano fare, e queste le verranno cancellate. Sono, nello specifico, Roma vedrà cancellati 101 milioni di euro, quindi la Raggi deve essere contenta, a Napoli 71 milioni, De Magistris contento, a Torino poco meno di 70 e l'Appendino contenta, a Milano 42 milioni e anche qui Sala contento. Però faccio notare che adesso, così come riflessione estemporanea, l'unico del PD che Sala è quello che ne becca meno. Questo per fare capire com'è cambiata anche la geografia delle grandi città italiane dopo queste amministrative. Ma ne parliamo tra 10 minuti. Gianni Trovati, invece, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Ecco, non vale per i comuni, vale solo per le città metropolitane. E si sta ripetendo quello che è avvenuto nel 2015, se ben ricordo, con le 68 province che non rispettarono i vincoli. Vi fu un salvagente per 600 milioni di euro. Che cos'è il salvagente e perché si applica? Sì, si sta ripetendo naturalmente in peggio quello che è successo nel 2015. Il problema è questo: città metropolitane e province hanno subito, a partire da, appunto, dalla manovra del 2014, tagli miliardari crescenti sulla base del presupposto che la riforma del Rio avrebbe spostato funzioni e personale e quindi avrebbe alleggerito i costi. Quindi, certo, hai meno costi, io ti taglio i fondi che hai. Cos'è successo? È successo che i tagli sono arrivati subito, perché è facile da fare. Tu scrivi in finanziaria, ti taglio un miliardo. Spostare il personale è più difficile, non è ancora completato, è in via di completamento la mobilità dei cosiddetti esuberi delle province e delle città metropolitane. Il risultato, questi enti hanno quasi tutti sforato il patto di stabilità. Quando si sfora il patto di stabilità, se un ente sfora di 100, l'anno dopo dovrebbe ridare allo Stato 100. Se succedesse questo, praticamente tutte le città metropolitane e praticamente tutte le province sarebbero in dissesto, con, certo, le conseguenze ben immaginabili. Arriva quindi questo salvagente che azzera le sanzioni. Non è un do-des sulle elezioni, come giustamente dicevi tu, perché di gente simpatica al Presidente del Consiglio e al governo in questa fase non ce n'è tanta. Nelle grandi città c'è, appunto, Beppe Sala a Milano, c'è anche Merola a Bologna, ma Merola non ha bisogno del salvagente, perché Bologna è, certo, insieme a Reggio Calabria, sono le uniche due città metropolitane che hanno rispettato il patto e quindi non hanno bisogno di salvagenti. Due domande che ci pongono gli ascoltatori: ma le province ci sono ancora? Beh, sì, come elemento giuridico sì. I dipendenti invece, spieghiamo bene il passaggio, perché tu ricordavi che tutto questo avviene anche perché dopo il passaggio delle funzioni delle province alle regioni, previsto dalla legge del Rio, si devono trasferire circa 20.000 dipendenti ad altre amministrazioni dello Stato. Poi faccio notare anche una cosa che riguarda invece i crediti che i comuni vantano nei confronti dello Stato, ma restiamo sulle province e i passaggi. Sì, le province ci sono ancora e sono un bel problema di finanza pubblica, proprio per quello che dicevamo prima. Avevano 50.000 dipendenti, la riforma ne sposta sostanzialmente la metà e questo spostamento è in via di ultimazione, però insomma sono 26 mesi che la riforma del Rio è stata approvata, perché ovviamente fare un'operazione così imponente anche dal punto di vista dei numeri, la PA con la mobilità nei tempi normali sposta meno di 1.000 persone in un anno. Qui ce n'erano 26.000 da spostare, sono state rimangono province, esatto, rimangono province alleggerite di funzioni e di personale, e però rimangono fino a quando? Fino a quando la riforma costituzionale, se passerà il sì al testo votato da Camera e Senato, le cancellerà del tutto. A quel punto rimarranno solo le città metropolitane, che sono, diciamo così, la versione 2.0, come si usa dire, delle vecchie province nelle grandi città, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e così via. Le province scompariranno del tutto. Il problema è che naturalmente il personale e una serie di costi legati a funzioni che comunque rimangono in capo alle province, per esempio le strade, qualcuno se le dovrà sobbarcare, cioè non è che cancellando l'ente tu cancelli le sue funzioni, perché per esempio la manutenzione così complicata, anche se adesso un po' rilanciata, degli edifici scolastici, dei licei, degli istituti tecnici e così via, è in capo alle province. Tu cancelli le province, qualcuno comunque quegli edifici dovrà manutenerli. Diciamo che è in corso un lungo processo di riforma che è molto più lungo e molto più complicato di come veniva raccontato ovviamente, certo, dai propugnatori della riforma, questo è ovvio. Allora, questo per quello che riguarda il rapporto con le province. C'è un tema però che riguarda anche quanto lo Stato deve ai comuni, perché i comuni sede di tribunale hanno un credito, per esempio, di quasi 700 milioni di euro per gli arretrati delle spese di funzionamento dei palazzi, che vengono di solito anticipate dai comuni, ma poi è il Ministero di Grazia e Giustizia che deve ridarli, per esempio. Esattamente, lì è un tema che si trascina da anni e che si è accumulato, perché i comuni anticipano e i governi, perché parliamo di anni, ne ridanno in ritardo una piccola quota. Si è studiato un piano, diciamo così, di rientro da questi debiti a rate, si è ipotizzato una trentina di milioni all'anno. Vedremo se questa norma entrerà nel decreto enti locali, probabilmente se ne discuterà in Parlamento. Qui è la sovrapposizione di funzioni. La giustizia è una funzione statale, i palazzi di giustizia hanno delle spese di luce, di riscaldamento, di funzionamento, di cancelleria, eccetera eccetera, che venivano anticipate dai comuni. Ora questi anticipi per ora, per l'oggi, non ci sono più, perché il governo è intervenuto con l'ultima manovra e ha messo dei soldi statali per evitare questo dare avere. Il problema è che c'è un arretrato sconfinato e i calcoli dicono che solo per gli anni 2010-2015 sono 700 milioni. Parliamo di un centinaio di comuni, quindi è una cifra molto molto rilevante. Vedremo queste rate se partiranno. Sì, perché altrimenti a rate, come tu sottolineavi, a rate annuali da 30 milioni ci vorrebbero 20 anni, sì. 20 anni, cioè praticamente tempo di aver trasferito i dipendenti dalle province con i tassi a cui eravamo abituati, sì. Avremmo anche chiuso il capitolo dei soldi che il Ministero di Grazia e Giustizia deve ai comuni italiani. Ovvio per voi, no, non sono sorprese, abbiamo spiegato in tempi chiari che le province venivano chiuse come soggetto politico, che però i loro dipendenti sarebbero stati trasferiti, quindi il risparmio non è totale, anzi in alcuni casi è marginale. Poi se vogliamo dare il messaggio politico c'è ed è arrivato. Comunque grazie da questo punto di vista, poi lo rivedremo il nostro ospite, a Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Grazie a voi. Allora andiamo adesso verso GR24 e poi parliamo delle variabili economiche che hanno giocato sulle amministrative, ma soprattutto che il governo dovrà prendere in mano in maniera anche più, posso usare il termine più, non sincera, ma con meno narrazione enfatica, ottimistica, perché sennò poi uno si ritrova a vivere un'altra realtà e dice qua mi stanno prendendo per i fondelli. 349-238-6666 per gli sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Tutti i giorni dalle 14 alle 15:30 il professor Genta e il professor Pardo, tutti convocati, sì, un'ora e mezza, 90 minuti, il tempo di una partita, grande entusiasmo, ottimismo, sempre su Radio 24, la passione si sente. Una settimana d'allenamento, poi la domenica ancora tutti convocati per il processo a caldo dei grandi eventi sportivi, europei, olimpiadi, Valentino Rossi, la Ferrari, quest'estate nessuna pausa. Sono Giovanni Capuano e tutte le domeniche vi aspetto dalle 17 alle 19. Il segnale orario vi è offerto da Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Tensione, sfida, traguardo, ripasso, rito, emozione, ansia. In poche parole, maturità. A Radio 24 torna la notte prima degli esami. Sono Federico Taddia e vi aspetto martedì 21 giugno dalle 21 alle 24 insieme alla cantante Chiara De Lo Jacobo. Notte prima degli esami, notte... in diretta con le voci dei maturandi, i racconti dei personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura e i ricordi degli ascoltatori. La notte prima degli esami, una notte di passione. Maturità. Info su radio24.it in collaborazione con scuola.it. State ascoltando un programma offerto da... Se nella tua azienda c'è Inaz, c'è solo il bello del lavoro. www.inaz.it. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, come detto, in questo voto amministrativo ci sono tantissime variabili, a partire dal fatto che è un voto amministrativo, quindi variabili locali, ci sono variabili di carattere politico in senso stretto, quindi giudizio sull'operato del governo e giudizio sulla singola persona, e poi c'è comunque una variabile complessiva di carattere economico che molti hanno già fatto notare, ossia il fatto che paga il governo complessivamente, al di là delle generalizzazioni o dei casi specifici, paga complessivamente il fatto di avere una situazione economica che il paese e buona parte del paese vive come ancora estremamente difficile, mentre, questa è una lettura diciamo, che abbiamo visto da molte parti, mentre la narrazione, questo termine che è entrato in maniera prepotente con il governo Renzi, cioè quello che tu racconti, la narrazione del governo è stata troppo ottimistica rispetto alla realtà dei fatti. Questo scarto tra quello che io vedo come realtà quotidiana e quello che dice il governo, abbiamo svoltato. Attenzione, qui non si sta dicendo che uno dei due soggetti racconti balle, nel senso che il governo vede l'economia in miglioramento dopo due anni e mezzo di recessione continua, il primo PIL in crescita, quest'anno più 0,8, l'occupazione in miglioramento. Il problema è forse l'enfasi che ci metti nel dirlo, non ricordando che con un PIL che cresce dello 0,8 ci metterai anni a tornare al livello del 2007 e che con la disoccupazione, con questi numeri, il dato è positivo, ma molti ancora vedono solo che cosa? Lavoro precario, lavoro saltuario o lavoro che manca tout court. Allora, partiamo dalle dichiarazioni che ha reso in conferenza stampa alle 16 il Premier Renzi. Devo dire, non c'è stata nessuna edulcorazione per quello che riguarda l'intervento di Renzi. Ha ammesso vittoria netta dei 5 Stelle e ha poi aggiunto: non è un voto di protesta, attenzione, è un voto di governo. Noi confermiamo che si tratta dunque di un voto che ha ragioni di forte valenza territoriale. Contemporaneamente però la franchezza porta a dire che c'è un elemento nazionale che è molto forte nel dato del ballottaggio, e cioè che è una vittoria nei comuni, in quasi tutti i comuni in cui i 5 Stelle stavano, dei 5 Stelle anche contro di noi. Una vittoria molto, molto netta, una vittoria indiscutibile che va chiamata con il suo nome. Quindi il dato è un dato sicuramente territoriale, difficile, perché accanto alla vittoria in questa ventina di comuni da parte del 5 Stelle ci sono tantissimi comuni dove hanno vinto candidati del centro-sinistra e anche del centro-destra in altri comuni, tra l'altro molto diversi. Tuttavia questo elemento mi sembra che sia un elemento che vada riconosciuto con grande lealtà e chiarezza. Allora, ringrazio per averci raggiunto in collegamento. Da un lato Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, nostro ospite spesso sui temi di politica economica. Buonasera Guido. Buonasera. E dall'altra Aldo Bonomi, che è direttore dell'Istituto di Ricerca Aster, che lavora molto con i territori, volutamente, quindi le piattaforme produttive dei vari territori. Buonasera anche a lei, Bonomi. Buonasera a voi. Dunque, partiamo dalla mia considerazione iniziale, perché vorrei sapere se siete d'accordo o no. Guido, al di là dei mille distinguo che dovremmo fare parlando di Napoli piuttosto che di Torino, piuttosto che di Bologna, piuttosto che di Roma, di Milano e quant'altro, Varese, e al di là dell'analisi politica, perché c'è chi già titola la sconfitta dei due Mattei, Matteo Renzi da una parte e Matteo Salvini dall'altra, perché la Lega ha avuto un risultato quantomeno deludente, a me interessa la variabile economica. Allora, secondo te quanto ha pesato non la situazione economica in senso stretto, perché nessuno immagino potesse immaginare che Renzi in 2 anni avrebbe rivoltato il paese, cambiato le abitudini, annullato l'evasione fiscale, la corruzione, il malfunzionamento di parte dell'amministrazione pubblica, ma forse è lo scarto tra quello che lui ci ha raccontato, lui e il governo ci hanno raccontato, e la realtà che io vedo? Sì, in parte è certamente questo. La ripresa è molto debole e fragile anche per le turbulenze che arrivano dai mercati internazionali, però Renzi ha puntato 2 anni fa su una ripresa molto forte, questa ripresa non c'è, c'è un diffuso sentimento di incertezza nelle famiglie, nelle imprese, e quindi è chiaro che questa realtà si specchia in questi voti. Aggiungiamo anche il dato di un referendum costituzionale caricato dallo stesso Renzi di un grande significato politico, e addirittura dopo lui ha messo sul piatto la sua scommessa politica, e facciamo la somma di queste due cose e vediamo un risultato di questo tipo. Bonomi, anche per lei, è questo scarto, ripeto, nessuno sta dicendo che l'elettore italiano che ha punito il governo e quindi il PD si attendesse una rivoluzione, anche se il PD di Renzi molto ha giocato sul cambiare verso, però nessuno immaginava che improvvisamente saremmo diventati, avremmo avuto tassi di crescita, diciamo, del Nord Europa, e però forse la narrazione è stata troppo ottimista. Ma partirei proprio dal termine che lei ha usato, narrazione. Io credo che la narrazione, che ricordiamola, è una terminologia che appartiene alla politica, la narrazione renziana è stata molto dedicata al referendum e quindi molto polarizzata su una dimensione della politica alta, di vertice, che chiama a raccolta e a schierarsi rispetto a questo. Però, se mi è permesso, dove ha fallito, che al di là di questa narrazione, tutta politica, tutta dentro le categorie dell'autonomia del politico, se vogliamo usare un termine del Novecento, io direi che il fallimento è nello storytelling dello zero virgola. Cioè cosa voglio dire? Esatto, è come twittare ogni volta. Lo storytelling è una terminologia che assume la narrazione dentro l'economia circolare o dentro il ragionamento dell'economia digitale. Lo storytelling dello zero virgola, e quindi lo storytelling dello zero virgola non funziona, questo è il punto. Tu puoi pensare di fare una narrazione politica tutta basata sull'autonomia del politico che fa le riforme, che cambia il paese, lo rivolta come un calzino, dopodiché ovviamente devi scendere a fare i conti con la realtà. E la realtà non sta nello storytelling dello zero virgola, e questo è il punto, la realtà sta nei dati concreti, virgolette, di una dimensione di impresa che soffre. Lei, Barisone, lo sa benissimo, questa mela spaccata, per cui abbiamo una parte di manifattura e di economia che sta sulle reti lunghe, che va bene, e ogni volta citiamo quella, citiamo i numeri dell'internazionalizzazione, della capacità di reggere l'export, i numeri dell'internazionalizzazione dell'export, e a fronte di questo invece abbiamo l'altra parte della mela che ha preso una botta incredibile e che non è ancora riuscita a risalire. Quando dico l'altra parte della mela, bisogna ricordarsi che l'altra parte della mela è fatta di artigiani, piccoli imprenditori, commercianti, eccetera. Basta pensare come sono cambiate da questo punto di vista le città dove si è votato in questa direzione. Ma non è solo questo. Ovviamente la dimensione del lavoro, anche qui altro dato, sul quale ogni volta abbiamo ragionato sullo zero virgola e sui numeri ovviamente del Job Act, eccetera, eccetera, lascia fuori un'altra parte di quella dimensione, che fa uno storytelling sociale, che sono quelli che cercano di fare le start-up, i co-working, l'innovazione dentro il territorio, dentro le città, ma dentro questo, almeno nei miei microcosmi su Solo 24 Ore, racconto che quella è una mela spaccata in cui certamente c'è una voglia di fare, certamente però quella voglia di fare non fa condensa in una dimensione del lavoro autonomo, del fare impresa dentro i grandi passaggi dello storytelling management, come viene raccontato dalla nuova economia che viene avanti, in una dimensione sufficiente a compensare quello che era il grande bacino del lavoro manifatturiero e della dimensione di impresa rispetto. Quindi, se ho ben capito, lei dice, da un lato questo è un paese spaccato in un paese, un modello di impresa neanche magari fosse in due, il problema è che è minoritaria, per quanto importante, noi le stimiamo in 20-25 mila il numero di imprese che hanno quelle che le chiama reti lunghe, cioè che hanno internazionalizzato, vendono sui mercati, hanno superato i distretti, nel senso che distretto non ha più una connotazione geografica, ma tu vai a prendere i fornitori laddove sono più convenienti, levando, diciamo, il luogo geografico al distretto industriale, che però resta, e quelle, diciamo, sono messe bene. Poi c'è la parte che non ce l'ha ancora fatta, e che non è detto che ce la faccia tutta, che è molto più numerosa e che non si ritrova in questo racconto. E tra l'altro nemmeno il racconto di chi invece sta cambiando modelli produttivi, le start-up a cui faceva riferimento lei, riesce a superare al mal di pancia degli altri. Dopo però il traffico, vorrei chiedervi una seconda cosa, perché molti ascoltatori mi fanno notare, ma insomma, però era giusto, meglio essere ottimisti che catastrofisti, mi scrivono alcuni, altri nel criticare i giornalisti dicono anche la vostra narrazione spesso inutile, pregiudiziale, catastrofica di voi giornalisti sta danneggiando l'economia italiana, da 25 anni dite che agli italiani che fanno bene a non pagare le tasse, no, veramente lo dicevano alcuni politici, che studiare non conta, non l'abbiamo mai detto qui, non vi occupate mai di scuola, bravi e senza laurea. Allora, al di là della narrazione dei giornalisti italiani, è anche vero che un premier può dire, vabbè, manca il fattore fiducia e quindi devo dire che questo paese ce la può fare. Vorrei capire ancora meglio che cosa è saltato in questo, perché l'approccio era corretto. La fiducia nel futuro è una variabile economica importantissima, ti porta a investire e a prendere dei rischi, per cui non si può dire che il principio di partenza di Renzi fosse sbagliato, ma il risultato finale fino adesso è invece di aver aperto un varco. Vorrei capire perché, ancora meglio dopo il traffico. Focus Economia. I just hope you ain't the money, money, money, money, money. Love me, honey. You got me singing Georgia. Allora, Guido Gentili, dov'è che è saltato il principio anche giusto di dire di iniettare un po' di fiducia nel paese, nelle sue capacità, nel fatto di poter svoltare? E che cosa adesso, vengo alla seconda parte, dovrebbe fare il governo, diciamo, per ristabilire, per ridurre la frattura tra quello che è il racconto del governo e quello che è la realtà che vivono, non tutti, ma molti cittadini italiani? Il racconto è saltato, il meccanismo, perché i risultati, non è colpa dei giornalisti, sono inferiori rispetto alle attese. Se l'Italia cresce meno di altri paesi quando c'è la ripresa e scende di più di altri paesi quando c'è la crisi, vuol dire che le cose non funzionano e che il problema è molto serio. Sappiamo ad esempio che noi da 20 anni abbiamo una produttività stagnante e questa è una catena che noi ci portiamo dietro e che non siamo riusciti a spezzare. Cosa deve fare il governo? Probabilmente fare una manovra molto più importante dal punto di vista della quantità delle risorse da mettere in campo dal lato fiscale, dare un colpo di frusta su questo terreno, scuotere un po' l'attenzione, gli animi, richiamare appunto a una svolta molto forte, molto decisa, e insieme riavviare gli investimenti, fare in modo che si possano essere riavviati gli investimenti, perché un paese che non investe, che è sempre alla finestra, e questo non riguarda solo il governo, riguarda le imprese, riguarda il mondo produttivo in generale, che è, rimane solo alla finestra a guardare se la ripresa c'è o non c'è, è evidente che il meccanismo non funziona. Quindi occorre, diciamo, uno shock, chiamiamolo come, come ci pare, per cercare di svoltare da questo punto di vista. Oh, nessuno di voi due mi ha citato il fallimento da un punto di vista politico-elettorale, ci mancherebbe, dell'operazione IMU e TASI. È inutile che ci giriamo attorno, ma tutti, quando dicemmo un anno fa, lo scrisse Sole 24 Ore, lo dicemmo noi, attenzione, forse è meglio fare la manovra con quei soldi su IRPEF, IRAP e le tasse su chi il lavoro lo fa o chi il lavoro lo dà, e non sull'IMU, ci fu detto, vabbè, non capite nulla, e comunque quello, tutti gli italiani sono proprietari di casa. Mi sembra che abbia pesato zero come dato elettorale l'aver levato l'IMU, con un costo invece certo sui conti dello Stato, e che ha rimandato di fatto una manovra su lavoratori e lavoro e datori di lavoro. E l'altro tema che non avete citato è il tema bancario, nel senso che a mio avviso qui l'idea che il governo sia distante dal paese la si è avuta in maniera plastica anche in come è stato percepito nella vicenda banche, non solo il coinvolgimento indiretto della Boschi con la vicenda Etruria, ma tutta la vicenda banca, non si è mai speso con toni veementi nei confronti delle banche. Bonomi, poi rapidamente Gentili su questo. Aldo. In maniera telegrafica partirei dal concetto di fiducia, totalmente d'accordo con lei che la fiducia è un elemento economico fondamentale. Però rispetto a questo mi pongo un interrogativo. La fiducia si produce comandando dall'alto o si produce accompagnando i processi? Domanda vera. E quindi, detto fuori dai denti, il problema della narrazione solo ed esclusivamente andando a visitare le situazioni positive e le situazioni eccellenti per dire vedete l'Italia è un paese eccellente che ce la fa, e invece il problema di prendere per mano gli impauriti, ma giustamente lei ha citato il problema della mutazione antropologica della questione del risparmio, questo è un problema che scava dentro le incertezze e le paure, e quindi se tu governi ovviamente certamente prendi in mano la questione banca, ma accompagni il problema, pensi lei che cos'è per il nord-est produttivo la questione Popolare Vicenza e Veneto Banca rispetto a questo, pensi lei che cos'è per quelli che non ce la fanno rispetto a questo, e quindi qui sono i nodi veri, e quando arriviamo al concetto di accompagnare producendo fiducia significa che la politica deve ritornare sui processi reali e non può stare solo in una dimensione di sorvolo della narrazione alta rispetto a questo, perché poi o tu accompagni, ma dentro questo c'è un'altra grande questione, che siamo dentro un'altra mutazione profonda che ovviamente che rimanda al problema dei corpi intermedi, delle situazioni eccetera. Faccio solo timidamente notare una cosa, Torino che ha colpito tutti, perché ovviamente Torino è la dimensione del fordismo, della grande fabbrica, della sua transizione, rapidamente ricordiamoci che a Torino c'erano in piazza i forconi. Quando uno vede i forconi non era solo ed esclusivamente un problema di piccoli trasportatori, c'erano gli ambulanti, c'erano i commercianti che avevano chiuso le serrande, c'erano quelli che ovviamente non ce la facevano rispetto a questo. Allora il problema è certo innovare, ma allo stesso tempo accompagnare i soggetti in difficoltà. Cioè, ma quindi una soluzione secondo me importante, è vero che devi visitare qualche, usando come immagine figurata, non solo le fabbriche che vanno bene, non solo gli investimenti positivi che ci sono, ma andare anche in qualche luogo di difficoltà reale. Avremmo amato anche noi vedere qualche esponente del governo tra Vicenza e Montebelluno, oltre che nelle quattro famose banche. Lì è stato il deserto, solo Zanetti è andato perché era anche azionista. Cioè c'è stata una presa di distanza da distribuzione di valore vero, e devi andare ogni tanto a visitare qualche situazione di difficoltà, così sembri forse, Guido Gentili, più vicino al paese. Anche per te questa ultima risposta, hai un minuto. Risposta flash. Per quanto riguarda l'IMU e la tassazione sulla casa, io non credo che diciamo, se avessimo impiegato tutti i soldi in un'altra maniera avremmo risolto i problemi. No, ma ci mancherebbe. Quindi vuol dire questo, direi che questo è un dato da tenere in conto. Secondo, invece, concordo sul discorso bancario, perché quello che è emerso prima delle vicende delle quattro banche e poi in Veneto con la Popolare di Vicenza e Veneto Banca, insomma, qui siamo di fronte a dei territori che erano considerati ricchi al riparo dalla crisi e ci siamo invece ritrovati davanti a una serie di problemi, di una cattiva gestione, di scandali, di, se vogliamo, di corruzione, insomma a una serie di episodi che veramente questi minano la fiducia delle famiglie e delle imprese, e questo è un prezzo alto che paga il governo su questo terreno. Tornare a visitare tutto il paese, diciamo che se ho ben capito i vostri ragionamenti, non solo la parte del paese che è più avanti e che, diciamo, ha investito, che ha casi di successo. Se continui a fare una narrazione solo sui casi di successo, fai sentire, uso un termine, sfigati e fuori dal tuo racconto una buona fetta, maggioritaria, ahimè, del paese. Questo solo per le variabili economiche. Grazie Guido Gentili, grazie Aldo Bonomi, da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.